diciamo, un piccolo commento sulla situazione della ricerca scientifica in Italia confrontata con quello che sta succedendo adesso negli Stati Uniti. Va bene, bisogna innanzitutto chiarire il fatto che negli Stati Uniti c'è un sistema strutturato, ben funzionante, con grandi finanziamenti, ma al di là dei finanziamenti, diciamo, è il sistema stesso che è un sistema sano. Il problema è in Italia che il sistema non è sano e i finanziamenti sono molto scarsi. Ora, Obama nella campagna elettorale ha dichiarato che vuole raddoppiare gli investimenti federali nella ricerca di base in 10 anni, concentrando l'attenzione su scienze della vita, fisica, matematica e ingegneria, aumentare le borse per giovani ricercatori, eccetera. In Italia che succede? Per esempio, vi faccio un esempio recente, c'è stato un bando di questi progetti FIRB, si chiamano, Futuro in Ricerca, che è stato un bando del fine 2008 e che è scaduto adesso. E praticamente sono dei soldi che vengono messi, 50 milioni di euro, per dei progetti di ricerca di giovani ricercatori, diciamo divisi in due linee, di età non superiore a 32 anni, non ancora strutturati, e di età non superiore a 38 anni già strutturati, cioè già assunti. Ora, questi ci sono 50 milioni di euro con progetti che in media vengono finanziati per circa 1 milione di euro, quindi facendo un conto a spanne, diciamo, ci sono una cinquantina di progetti che verranno finanziati. Ora, le domande pare siano state dell'ordine di 7-8 mila, quindi diciamo una probabilità a priori di vincere dell'1%, quindi come si vede da questo piccolo esempio, qui c'è stata tantissima gente che ha fatto domanda. Perché? Perché sono tantissimi giovani che non stanno dentro il sistema universitario, che fanno ricerca anche di buona qualità e che cercano disperatamente dei fondi per sopravvivere, diciamo. Però questi fondi sono delle briciole. Il problema che uno si deve porre è un problema strutturale che non si può risolvere con una norma, una finanziaria, un po' di soldi domani, cioè deve essere un'idea di quello che si vuol far fare all'università in un arco di tempo di 10 anni. Se non c'è questo, non ci sarà mai nulla.